24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Tutte le volte che si parla di fisco è naturale intrecciarsi con uno dei tanti processi di Berlusconi su questo. Allora vediamo di essere chiari. Noi non facciamo le norme né ad personam né contro persona. Berlusconi continua a governare, non Renzi, lo fa con il beneplacito di Renzi, inserendo un uomo suo che riesce a far inserire queste norme salva Berlusconi quando il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Questo è il bel regalo. Penso che neanche un italiano potesse credere che Renzi non ne sapesse nulla. Se così fosse, se ci hanno preso in giro per 10 giorni, sarebbe grave, si potrebbe anche dimettere. Se però qualcuno immagina che ci sia chissà quale scambio, quale retroscena, questa norma la rimanderemo in Parlamento soltanto dopo l'elezione del Quirinale e dimostreremo con chiarezza che non c'è nessun inciuccio strano di cui avere paura, avere timore. Giovanni Toti, consigliere politico di Berlusconi, buongiorno, eurodeputato, ma intanto a Bruxelles ci va? Guardi, a Bruxelles ci va molto più di quanto scrivono i giornali. I numeri che ho letto sui giornali sono francamente un po' campati per aria. E di che cosa si occupa a Bruxelles? Cosa segue in particolare? Io sono nella Commissione Cultura e nella Commissione Giuridica del Parlamento Europeo e per la verità la legislatura è iniziata da pochi giorni, certo, perché la Commissione Europea si è insediata, come è noto, solamente a novembre con le audizioni dei commissari. E che aria tira a Bruxelles? Non tira una bella aria, Minoli, tira una bella aria né per l'Europa né per l'Italia, perché infatti questa legislatura fa tanti cambiamenti all'interno dell'Unione Europea, oppure la vedo male. Ora, quello che capiterà in Grecia sarà determinante. Vediamo forse le elezioni in Grecia, ma non solo, se bisognerà vedere i conti di Italia e Francia quando a marzo la Commissione ci tornerà su, bisognerà vedere se il piano Juncker di investimenti che dovrebbe rilanciare il continente funzionerà davvero oppure no, sono tanti no. Insomma, tante incognite. Torniamo a casa, allora, a questo punto si è capito chi è stata la manina che ha scritto il salva Berlusconi? Ma avete sbagliato numero, dovete chiamare Palazzo Chigi, perché io in Consiglio dei Ministri non ci sto, non ne ho idea. Dopo tanti giorni magari l'avete capito anche voi. No, guardi, non sono portato a fare l'investigatore privato, non mi è mai riuscito nella vita. Io ho letto sui però giornali, ha fatto il giornalista bene, quindi avrebbe dovuto... Non c'è dubbio, infatti sui giornali, buon mattino, ho letto quella notizia quando uscì, credo, mi pare su Repubblica per l'esclusiva l'apertura. Ma è importante sapere chi l'ha scritto o no? No, guardi, io trovo che ci sia una responsabilità di chi l'ha ritirata, perché è un ritiro contro italiani, perché quella era una norma, a mio modo di vedere, pur non avendo, come dire, non sapendo chi l'ha inserita, secondo me era inserita in modo benemerito, perché era una norma che proteggeva una serie di contribuenti vessati dal fisco più rapace dell'intero vecchio continente. Non solo però, insomma era una norma che difendeva gli evasori. Guardi, mi sembra allora abbastanza grave. Allora dovremmo... No, non difendeva gli evasori fiscali. Chi per un errore o per anche una furbizia, ma aveva denunciato al fisco meno del 3% del suo reddito imponibile, sarebbe stato dovuto costretto a pagarlo, pagare col sovrapprezzo, pagarne il doppio e quant'altro, non correva in un processo penale. La norma stabiliva che il processo penale scattasse per evasioni, elusioni e questo genere o dichiarazioni infedeli superiore al 3%. Non è che sotto il 3% non accadeva niente, semplicemente non si andava in un processo penale. Senta, che onorevole... una cosa tutto sommato di assoluta ragionevolezza e civiltà. Ecco, però onorevole Toti, però il professor Coppi, che è il difensore di Berlusconi, ha detto al Fatto che la norma è legata all'accordo sul Quirinale. Ha torto allora? Ma guardi, perché Coppi sa delle cose che io non so, francamente io non ci vedo. Però l'ha detto, l'ha letta l'intervista, immagino. Certo che ho letto l'intervista, ma non rispondo di quello che dice il professor Coppi. Io posso dire che non ci vedo nessun legame con il Quirinale, ci vedo un... No, l'ha detto lui, non io. Ma no, per l'amor del cielo, ognuno si assume la responsabilità, certo, di quello che dice. Non so, forse Coppi sta trattando il Quirinale, non mi risulta. È una sua opinione legittima, non è la mia. La mia opinione è che ancora una volta nella sinistra è prevalso riflesso condizionato, per cui una norma che avrebbe aiutato nel rapporto con milioni di italiani è stata ritirata perché forse il periodo ipotetico del terzo tipo aiutava anche. Berlusconi dice però, a proposito di questo, che lui non ne sapeva nulla, si può credergli? Io penso di sì, io non ne sapevo nulla, penso che non ne sapesse nulla neanche Berlusconi, che sia una vittima inconsapevole. Perché le dice tutto, volte. Berlusconi le dice tutto? Come? Berlusconi le dice tutto? Beh, non so se mi dice tutto. No, lei dice non lo sapeva lui, non lo sapeva neanche. Ma io dico che Berlusconi è vittima due volte della polemica che c'è oggi e del fatto che ancora una volta viene utilizzato come capro espiatorio per ritirare un provvedimento che era giusto, e con lui ci rimettono tutti gli italiani. Allora, questo l'ha detto. Dovremmo cancellare. Se noi decidessimo di cancellare le tasse sulla casa, mi direbbero che faccio un regalo a Berlusconi perché ha molte case, non ho capito. Oppure i pedaggi autostradali perché talvolta Berlusconi usa la macchina, non si possono Senta, onorevole Totti, Berlusconi ha raccontato però che il giorno prima Renzi gli ha telefonato per gli auguri. Possibile che si siano detti solo buon anno? O buon Natale? Non so neanche se si sono telefonati per gli auguri. L'ha detto lui, almeno io l'ho letto, non so. Non lo so se l'ha detto lui, è possibile che si sia buon Natale. Ma si incontrano o no nei prossimi giorni? Ma io penso per quello che ne sa lei. Io penso che prima o poi si incontreranno, ma come penso che Berlusconi debba incontrare anche altri leader per parlare del. Ma non sa quando, non sa quando. Non mi risulta una non data ci sono date immediate momento, e credo che la politica farebbe bene a non aprire, come si dice, le danze per il Quirinale mentre c'è ancora un inquilino saldamente in cella, quindi aspetterà Napolitano stabilire. Saldamente ha detto lui che se ne va, non è un'ipotesi, diciamo, però, guardi, l'ha detto con chiarezza. C'è una data abbastanza importante per la politica italiana che è il 13, cioè la prossima settimana, martedì per l'esattezza, il discorso di Renzi al Parlamento europeo chiude il semestre. Certo. Dopodiché ci sarà un calendario più preciso. Senta, ma secondo lei, onorevole Totti, il patto del Nazareno regge a questa bufera? Secondo me il patto del Nazareno deve reggere a questa bufera assolutamente, per quanto ci riguarda sì, perché è un patto che abbiamo sottoscritto con i nostri elettori e con il paese per cambiare le regole della nostra democrazia e renderla più efficiente. Ecco, allora parliamo di queste regole. Intanto l'accordo sulla legge elettorale, che oggi inizia il suo iter al Senato, un po' sembra in difficoltà perché non si capisce se siete favorevoli o no al premio di maggioranza, almeno io non l'ho capito. No. Allora glielo spiego, siamo assolutamente favorevoli al premio di maggioranza che venga attribuito alle coalizioni e non alle liste come chiede Renzi. Il nostro è un bipolarismo per coalizioni da 20 anni. E quindi, se invece è assegnato alla lista, voi siete contrari. Ma guardi, l'abbiamo già detto, è molto chiara la nostra posizione. L'Italicum nell'impianto complessivo va bene, lo voteremo, non voteremo l'articolo che prevede il premio di coalizione alla lista, voteremo come la nostra convinzione il premio di coalizione alla maggioranza. Ecco, Pane Bianco. Il Parlamento decide la maggioranza. Ecco, Pane Bianco sul Corriere della Sera oggi dice che con lo sbarramento al 3% però non ci sarà più opposizione, è un rischio? Ma no, io non lo vedo il rischio, abbiamo fatto ottimamente l'opposizione ai governi della sinistra e con una coalizione unita e coesa per 20 anni di storia repubblicana in cui il bipolarismo si è consolidato. Comunque il Presidente della Repubblica bisogna leggerlo molto presto, a parte le frasi di rito, non mi dica che deve essere super pazzo, eccetera, lo sappiamo, mi dà un elemento in più per fare l'identikit almeno di questo Presidente che arriverà nel momento giusto? Ma guardi, è prematuro per fare il giochino di... No, ma non voglio fare il giochino, voglio un elemento che non sia quello delle frasi di rito. Noi abbiamo detto delle cose che sono, se vuole, anche banali, ma molto, ma di cui ci convincono molto. Cioè, dopo tre presidenti che sostanzialmente il popolo di centrodestra di questo paese, che è maggioranza, ha vissuto come sbilanciati verso la sinistra, ci piacerebbe un presidente del Consiglio che anche i nostri elettori, quel blocco sociale che rappresentiamo in questo paese, possa considerare come un arbitro imparziale. E quindi non può essere di origine comunista, avete una pregiudiziale assoluta su questo punto. Ma guardi, le pregiudiziali non sono penso a quello che ha detto lei adesso. A noi piacerebbe che provenisse da un'area culturale non della sinistra, questo è piuttosto evidente. E quindi poi dovremmo fare, come sempre, quando parliamo di condivisione di scelte, delle mediazioni, evidentemente, certo, delle mediazioni, e non si può non considerare che questo Parlamento i numeri sono quelli che sono. E quindi anche la politica è l'arte del possibile, non è l'arte del desiderio. Lo so, Totti, senta, e quindi i vari Veltroni, Finocchiaro, Fassino, Bersani qualche speranza ce l'hanno? Le speranze. Vabbè, ma mi dica al una momento, cosa. No, Minoli, al momento fare qualsiasi nome sarebbe scorretto per la persona che viene indicata, perché in questo momento si sa quale giochino al massacro ci sia su queste cose, e non sarebbe corretto nel metodo. Vabbè. Se chiediamo alle altre forze politiche un percorso di condivisione, mettere i conti oggi sarebbe controproducente e anche scorretto. Senta, per Prodi si è parlato di una mediazione di Putin, è fantapolitica? Io credo proprio di sì. Senta, ma in Forza Italia si parla di 70-80 franchi territori pronti insieme alla minoranza del PD a fare massa critica contro la proposta che verrà da Renzi. Riuscirete a superare compatti, secondo lei, la prova del voto segreto? Ma mi sembra fatta politica anche i numeri dei franchi tiratori. Sì. Io sono convinto che se la scelta sarà condivisa sul serio, i franchi tiratori saranno. Ma Confitto non c'è problema? Confitto non ci sono problemi da questo punto di vista? Direi di sì. Ma guardi, io non ho parlato ultimamente con Raffaele, ma vabbè, immagino, però, che, immagino che, ripeto, se le scelte sono seriamente condivise, frutto di un percorso serio, non ci saranno problemi con nessuno in Forza Italia. Vorrei anche sottolineare, francamente, che al di là dei numeri che ha dato adesso, che mi sembrano largamente esagerati, Forza Italia non ha mai avuto franchi tiratori in questa proporzione, fino ad oggi il gruppo di Forza Italia è quello meno diviso in Parlamento. Senta, se le riforme elettorali e la riforma del Senato sono incardinate in discussione in aula, lo sono per i voti determinanti, e sottolineo determinanti, del gruppo di Forza Italia. Vabbè, questo è il Nazareno che regge, diciamo. Ecco, senta, un'ultima domanda mia, prima di Secchi e Buttafuoco. Le elezioni primavera, secondo lei, si avvicinano o si allontanano? Io non ho mai visto. Non le ha mai viste? Le dà a zero, quindi? Dovesse no, scommettere? Nel sistema italiano una percentuale. No, vabbè, posso sbagliarmi. Mi dica la percentuale, no, allora. Posso sbagliarmi, ma direi che non ci saranno elezioni in primavera. No, senta, Mario Secchi. Sì, buongiorno Giovanni. Buongiorno Mario. Allora, una un po' più lunga del solito sarà la mia domanda, ma non troppo, se no si spaventa. Allora, noi abbiamo una cosa strana, c'è un Parlamento sottoposto a mille regole, tanti organismi, diciamo, di rilevanza costituzionale pure, poi abbiamo il Consiglio dei Ministri che non ha una regola di fatto sullo svolgimento, sulla pubblicità di quello che succede dentro e così via. Ti faccio un esempio, un consiglio di amministrazione di una grande società privata c'ha i consiglieri indipendenti, deve sottostare a mille regole del mercato e così via. Il Consiglio dei Ministri, i cui azionisti siamo noi, è una specie di vetro opaco. Non sarà il caso di riscrivere le regole della governance? Ma noi le regole della governance per quanto riguarda i poteri del Presidente del Consiglio, dei singoli ministri, le vorremmo riscrivere da tempo, e come sai bene Mario le avevamo anche riscritte in una riforma costituzionale per abrogata con referendum. Sì. Dopodiché, ripeto, a Renzi abbiamo più volte detto noi di allargare l'ambito di quelle che sono le riforme costituzionali al di là del bicameralismo. Sarebbe da riformare il Consiglio dei Ministri. No, ma sta parlando del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. La trasparenza della discussione in Consiglio dei Ministri. Bisogna sapere o no? Che cosa chi si dice dicono? Cosa? Guarda, sì o no? Siccome stiamo parlando di un luogo dove si prendono anche decisioni delicate, talvolta. Quindi è meglio di no, dice lei. Il segreto di Stato, a mio avviso, bisognerebbe forse riformarla garantendo pubblicità alle cose che si possono ovviamente, vabbè, okay, ovviamente dire, in altri casi opportunità vorrebbe che rimanessero ovviamente. Pietrangelo, Buttafuoco, Pietrangelo. Petaggio, una domanda per Totti? Sì, a proposito di Quirinale, non vogliamo bruciare nessuno e quindi glielo dico all'orecchio, ma perché non vi giocate la carta di Antonio Martino? Beh, Antonio Martino sarebbe un ottimissimo Presidente della Repubblica, di tradizione culturale liberale, sarebbe per me un ideale di Presidente della Repubblica. Vabbè, lo candida? No, glielo suggerisce Berlusconi? Ma io non credo abbia bisogno di suggerirle, è la tessera numero, è tra le prime cinque tessere di Forza Italia, la tessera numero due di Forza Italia, Antonio Martino, quindi col presidente Berlusconi è un rapporto di vecchia data. Dopodiché, però è anche bene, più indipendente. Lo ripeto che abbiamo a che fare con un Parlamento. Vabbè, la proposta sarà, la proposta la deve fare Renzi. Grazie, onorevole Toti. Grazie, alla prossima volta. Voi. Grazie. Buongiorno. Lei è in contravvenzione perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia A1 nel settore preferenziale BZA adibito a traffico locale si incanalava nel quinto settore P esclusivo per i giorni dispari. Lei andava a 65 km l'ora. Per 15 km non è mica un caso grave. È invece grave, molto grave. Fino a 55 c'è l'ammenda, oltre 55 è previsto anche l'arresto. Stavo servizio su quelle piazze dove di vigili urbani nemmeno l'ombra. C'è un po' di cerume dentro l'orecchio, non c'è sede. Bene, vediamo un po'. Ammazzo, lo chiami cerume, questo è fango. Tu sei sordo. Ma orecchio mica è questo, è quest'altro. Dici? Vediamo. Dai, è peggio. Lavaggio. Lavaggio. Col sapone. Dove si scatenava la carica delle 600, delle 1100, delle 1400, delle 1500 e degli autotreni con i rimorchi? Dove nessun vigile di carriera avrebbe osato mettere il naso. Io solo mi battevo fino all'estremo delle mie forze in qualità di oscuro vigile volontario. E sintomi avete? Quando sto digiuno mi viene una fame. Caro, distendetevi. Soffrite di emicrania? Morto, dottor Miglio, da che sono nato una migrania. Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Ecco, dottor Bartoletti, come tutti sanno, il 31 dicembre su 900 agenti previsti in servizio a Roma, 571 hanno presentato un certificato medico che li esentava dal lavoro. A quali medici si sono rivolti questi 571? Splendida domanda, perché noi abbiamo sia chiesto ai colleghi di segnalarci eventuali anomalie nella giornata del 31, dove tra l'altro lavoriamo. Che risposta avete avuto? Giornata. No, nessuno, mi ha detto tutto nella routine il 31 mattina e poi abbiamo detto in ogni caso abbiamo fatto noi delle chiamate in giro e onestamente non abbiamo avuto nessuna segnalazione di anomalie. Quindi non vuol dire che... Quindi 571 tutti insieme ma nessuna anomalia, è strano. No, secondo il mio modesto parere non tutti insieme, perché non è chiaro ancora di quanti giorni erano questi certificati, perché anche, può anche darsi che si siano ammalati il 29 o il 30 o il 27, quindi se... E questa è l'indagine che lo risolverà. Insomma, però, voi nessuna segnalazione? Di anomalie? No. No. Cioè, sì, nella norma, cioè, a Roma insomma era molto freddo quei giorni, nella norma. Vabbè. Per il periodo, no, non c'era un'epidemia di vigili urbani, anche quello sicuramente sì. Specifica. Senta, ma i medici di base, prima di emettere un certificato, hanno l'obbligo di visitare il paziente oppure no? Assolutamente sì, tutti i medici. Quindi teoricamente sono stati tutti visitati questi? Devono essere stati tutti visitati, esattamente. Visitati nel senso che è chiaro che il limite della visita qual è? Se si va dal medico e ho un mal di testa, cioè la mia visita consiste nel fatto che lo vedo, gli dico ti fa male qua, sì, come dici sì. Insomma, però si devono vedere. Esatto, sì. Quindi si sono visti tutti questi 571 con i 571 medici? Beh, diciamo che, allora, noi siamo a Roma circa 2500 medici, quindi è chiaro che se noi diluiamo su 5 giorni, 6 giorni, stiamo parlando di un numero che in effetti non si nota, perché... A lei sembra plausibile che nella sola giornata del 31 dicembre... No, ma il 31, guardi, abbiano effettuato queste... Il 31 tendo a escludere categoricamente che siano venuti da noi il 31, 500 vigili, perché il 31 c'era anche io in studio, ce ne saremmo accorti, perché il 31 lavoriamo soltanto mezza giornata, da contratto, quindi noi lavoriamo dalle 8:30 alle 14 e se avessi visto 5 vigili urbani a macchina del 31 mi sarei insospettito, perché noi poi ci siamo già passati con questo tipo di giochetti. Quando ci siete passati? Con gli assistenti di volo, quindi ci siamo molti potenti. Quindi diciamo che l'avremmo notata la cosa. Il 31 io tendo a escluderlo, non so. Quindi era dati, già so. Quindi, peggio ancora, era già tutto preparato. Che è la cosa che mi rattrista di più, perché se fosse così sarebbe di una scorrettezza inaccettabile. No, adesso si dice che dopo una settimana adesso ci sono i controlli in corso, ma i controlli in cosa consistono? Io nel momento in cui certifico lo stato di malattia, anche di un giorno, io quando l'ho certificato l'INPS ha già accettato quella pratica, quindi di fatto Io non posso alterare le regioni di malattia. Ecco, ma che cosa si controlla? Sì, adesso si dice, si stanno facendo i controlli, il Ministero ha mandato i controlli, ma i controlli su cosa? Esatto, i controlli su malattie di uno o due giorni. Non vogliono dire niente. No, ma sarebbe no, ma sarebbero un costo pazzesco. Cioè, il problema è che si va a controllare, no? Cioè, non c'è un sistema che oggi consente di poter discriminare quali sono gli diagnosi. Ho capito, diciamo. Quindi per essere concreti, di fatto questi controlli non si possono fare. È chiaro che su un giorno di malattia io controllo. Dottor Bartoletti, un'ultima domanda. Ma lei è d'accordo con chi sostiene che in realtà si potrebbe essere trattato di uno sciopero mascherato, cioè che tutta questa manfrina è una manfrina organizzata? E questo è l'aspetto che mi preoccupa di più. Ma lo pensa che sia possibile? Ma guardi, io cito Andreotti che diceva pensa male, se va peccato, ma tante volte lo si prende. Vabbè, quindi lo pensa, ho capito, va bene. Esatto. Quindi è uno sciopero mascherato. Ecco, Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL, buongiorno, il sindacato che rappresenta il maggior numero di lavoratori della polizia locale, mi pare, dottoressa Furlan. Ecco, siamo davanti a uno sciopero mascherato, come dice il dottore? No, guardi, gli scioperi non sono mascherati. Quando c'è sciopero c'è la dichiarazione da parte delle organizzazioni sindacali e per quanto riguarda i servizi pubblici locali c'è un ilter molto particolare. E quindi lei non pensa che sia uno sciopero mascherato? Perché gli scioperi non esistono mascherati, o c'è una dichiarazione di sciopero ufficiale. D'accordo. O non, in questo caso non c'è. Perché il quindi sindaco... le responsabilità sono responsabilità individuali, sì, dei lavoratori, qualora ovviamente siano curati. Certo, certo, è curioso, diciamo, su 900 addetti 571 che presentano il certificato, mi pare una bella media. Improponibile. O c'era un'epidemia oppure una protesta organizzata in qualche modo. Guardi, una delle non due. Esiste, ripeto, uno sciopero che non sia uno sciopero. D'accordo, ufficiale. Questo l'ho capito, però. Per cui il termine sciopero. Vabbè, è non usiamo. Diciamo protesta improprio. Organizzata, protesta organizzata, si può dire. Ma guardi, anche qua, se è così è comunque grave. Certo. Non è così che si protesta e non è così che si fanno valere i propri diritti o presunti tali. La cosa che mi fa specie è che sono giorni e giorni che si parla di questo caso, sì, senza mai accennare alle tante decine di migliaia di lavoratori pubblici e privati questo, dei, sì, servizi che il 31 hanno regolarmente lavorato. Vabbè, però questo naturalmente è un caso che colpisce moltissimo obiettivamente. Come no? Ecco. E non è giustificabile. E non è giustificabile, perché lei ha detto che gli episodi di malcostume, appunto, sono frutto anche però di una chiusura del dialogo, di vertenze e situazioni lasciate incancrenire. Ecco, lasciate incancrenire da chi? Beh, insomma, da chi non svolge il proprio ruolo, la dirigenza, cioè? Per le sue competenze e anche ovviamente la politica per le sue competenze. Anni e anni di chiusura dei tavoli contrattuali, nel senso che 6 anni che non si rinnova il contratto per i lavoratori e le lavoratrici pubbliche, ma anche mancanza di confronto spesso negli enti locali, nei comuni, nelle regioni, non determinano certamente un clima di dialogo e di confronto vero. Dottoressa Furlan, ce l'ha col ministro Madia? Ma guardi, non ce l'ho con nessuno. Dopo 6 anni che non si rinnova il contratto pubblico, credo che non ci sia un solo ministro o un solo governo che in questi 6 anni, e ne abbiamo cambiati tanti nel nostro paese, abbia svolto il proprio dovere come stato datore di lavoro. Un gran brutto esempio che si dà anche ai privati. Ecco, ma il contratto dei dipendenti pubblici è fermo, mi pare, da 6 anni. Lo ridiscuterete a partire dai precari? Ma guardi, io me lo auguro proprio, anche perché nella pubblica amministrazione noi abbiamo decine di migliaia di precari, quindi che si ridiscuta la questione dei precari e lo si discuta attraverso un tavolo contrattuale sarebbe il modo migliore per iniziare a risolvere un tema così delicato e importante. Ecco, vediamo se troviamo un punto d'accordo col ministro Madia, ma lei è d'accordo col ministro appunto nel passare dalle ASL all'INPS, tornando un po' al problema di prima, il controllo fiscale sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici? Guardi, non ho proprio alcun problema rispetto a questo. Può essere un vantaggio? Può essere un vantaggio? Sono già sotto l'INPS per questa questione. No, ma le chiedo, qua, può essere una soluzione? Ma guardi, la soluzione non so se si fa solo in questo, credo che non sia così semplice. Le dico che non sono assolutamente contraria a questo tipo di passaggio. L'importante è che i controlli si facciano e l'importante è che si facciano a monte le verifiche opportune per tempo. Ecco, ma lei dottoressa Furlan, ha parlato di mancanza di adeguati controlli da parte dei dirigenti. Di quali dirigenti? Ma di tanti dirigenti pubblici che evidentemente non controllano, non vigilano, non si confrontano per evitare a monte che succedano queste cose. Ecco. Questo non significa togliere le responsabilità a chi ha sbagliato, guardi, manco per niente, anche perché lo sbaglio di pochi rischia poi di diventare un luogo comune per i molti che invece fanno il loro, vabbè, naturalmente, il loro dovere. Questo vale dappertutto. Ecco, Mario Secchi c'ha una domanda per lei, dottoressa Furlan. Sì, ho visto la riforma proposta dal Comune, c'era anche l'obbligo di turnazione dal territorio predisposta dal Cantone contro fenomeni di corruzione che ci sono stati. Le sigle sindacali non hanno accettato neanche questo, ma perché? Ma guardi, non ho proprio idea di questa trattativa, che è una trattativa assolutamente locale tra le organizzazioni sindacali del territorio e il Comune di Roma. Bisognerebbe vedere complessivamente com'è l'organizzazione del lavoro nel Comune di Roma, com'è l'attuazione dei contratti integrativi. Ho l'impressione che purtroppo siamo all'anno zero, abbiamo ritardi mostruosi. Infatti, anche su questo è un po' complicato guardare un'unica questione e non guardare invece la piattaforma complessiva che la categoria più volte ha offerto per confrontarla al Comune di Roma. Ecco. Bisogna riprendere una contrattazione che sia una contrattazione seria, a partire dall'organizzazione del lavoro. E lei ha detto prima, ridiscutere il contratto fermo da 6 anni a partire dai precari. È così? Possiamo concludere su questa affermazione? Ma guardi, 6 anni di mancato contratto sono costati ad ogni lavoratore mediamente dai 2.000 ai 4.000 euro. Lei capisce che anche la questione economica non è rilevante. No, naturalmente. Poi però le ho fatto un'altra domanda. Poi abbiamo un dramma vero in questo paese, che è la questione dei precari. Prima si affronta, meglio è. Ma si può dire che si parte di lì? Ma guardi, per me basta aprire i tavoli di trattativa, partiamo dalle emergenze. Le emergenze sono il rinnovo economico, il rinnovo normativo e ovviamente anche i precari. Grazie dottoressa Furlan, pubblicità. Mix 24. Prima canzone dell'anno? La prima canzone me l'ha passata un filosofo, il filosofo che incontro in metropolitana, che mi ha spiegato tutta una cosa strana, però affascinante, perché lui diceva che l'amore altro non è che il resto instabile di una coppia la cui metà è stata tolta. Così ha detto lui, proprio mentre era aggrappato al passamano, al corrimano della metropolitana, e portava tante sfere in tasca, alcune gli rotolavano addosso, cercavano una strada nei solchi comodi della sua sciarpa e nel fondo piatto del cielo, dove rimbalzava il riverbero, come dice lui, dei giorni vissuti. Ed è, ha spiegato, una realtà d'amore che è stata tolta, che però il filosofo non cessa di reclamare, rivendicazioni sulla metà rimasta. E le sfere, intanto, giocavano seguendo il cuore muscoloso, come canta questa canzone, film muto in ebraico, e giocava a fare l'indifeso, questo cuore muscoloso, sul piatto fondo del cielo, dove si disegnano impazienti arabeschi di baci. Disegnando di bianco il fondo piatto del cielo. torniamo anche con le nostre bolle, caro Mario. Sì. Cosa bolle in pentola? Oggi sono classici. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Allora, questo era il vecchio Gordon Gekko, sempre molto saggio e tagliente. E che anno farà? Perché insomma è appena cominciato, ma diciamo che il 2015 comincia ovviamente sulla scia del 2014 e il petrolio proprio non ci piove, mi sembra è una fase catalana. Allora, abbiamo il petrolio ovviamente che sta ancora scendendo, avete sentito stamattina ha rotto il muro psicologico dei $50 e scenderà ancora molto molto probabilmente. L'euro ai minimi, il dollaro ai massimi. Cosa faranno le banche centrali? Oggi c'è una giornata importante per molto orientarsi. L'abbiamo sentito nel giornale radio, sì. E la Federal Reserve pubblica le minute, cioè i verbali, diciamo, delle sue riunioni di dicembre. Questo aiuterà a capire qual è non tanto l'orientamento, si sa che tutti nella Federal Reserve vogliono aumentare i tassi, ma forse quando questo verrà, perché quello è il punto di incertezza. E segnalo che i verbali della BCE non sono pubblici. Non sono come il governo italiano. Come il consiglio dei ministri, che non come si sa chiedevi niente. A Totti. Non lo so, c'è un problema di governance e di trasparenza, mi pare, quindi vediamo se con un po' di buona volontà riescono a metterne un pochettino. Mario, ci scrive Adriano da Venezia, dato che tu ne hai scritto di questo. Sì. Ecco, è triste quel paese in cui dovrebbe far notizia, questo era un po' quello che diceva la Furlana anche, chi fa il proprio dovere, cioè chi lavora. Lo so, però sai, quando è l'uomo che morde il cane c'è notizia se no, dalle mie parti, perché è notizia, quella è la normalità. Pietrangelo. No, vi volevo dire, a proposito della Furlan di Roma e del nostro ascoltatore, mi è venuto in mente quando una volta col mio amico Nuccio Molino davanti all'archivio di Catania, lui chiese all'impiegato che era messo fuori, dice: scusate, ma nel pomeriggio lavorate? No, guardi, nel pomeriggio siamo chiusi, è la mattina che non lavoriamo. questo è carino. Bolla, vai. Pietrangelo, abbiamo ricominciato l'anno con i classici, prima Gordon Gekko, adesso poi l'inno sovietico, l'inno dell'Unione delle Repubbliche Socialiste. Va bene, insomma, la libertà. Dunque, vabbè, la Russia è in recessione, lo sapete tutti, il crollo del prezzo del petrolio ha provocato un grande caos. Sta cambiando caos. Gli equilibri geopolitici, mi sembra. Sì, direi che i sauditi hanno cominciato a fare quello che si chiama il gioco dell'omino nel pozzo. Bisogna vedere chi resta in fondo al pozzo. Quindi ci sarà da divertirsi. Questa è una guerra durissima. Questa è una guerra molto dura, seria. Molto seria e molto pericolosa per la stabilità mondiale. Vedrete nei prossimi mesi che cosa succede. Qui c'è gente che si sta svenando e c'è gente che sta pensando alla guerra. Poi naturalmente, come sempre, noi ci auguriamo la pace, però parliamo anche con una voce di realismo, diciamo, su queste cose. E dicevo, Putin è alle corde, indubbiamente, in difficoltà, meno di quanto venga dipinto dalla propaganda in questo momento, ma non ci sono dubbi che alcune cose stanno accadendo. Per esempio, la libera e democratica Ucraina adesso può festeggiare i grandi risultati ottenuti dopo la rivoluzione. In fondo, la produzione è diminuita dell'8%, il rapporto tra debito e PIL è raddoppiato rispetto al 2013, l'inflazione ha chiuso a più 25% e servono $15 miliardi per evitare il crack. Mi pare un grande successo quello ottenuto dagli Stati Uniti e dall'Europa, che infatti sono divisi da un piccolo particolare. Chi versa questi $15 miliardi? Segnalo, sempre per le cose che tornano, bisogna solo aspettare sulla riva del fiume, prima o poi si avrà comunque ragione quando le cose sono fatte fatte con buon senso, che François Hollande ha detto che forse è il caso di smetterla con le sanzioni, che tanto non servono, non piegheranno. Le sanzioni alla Russia, sì, dice, sì, certo, naturalmente, che tanto danno fanno anche a noi. Fanno danno all'Europa in particolare, e Putin ha dichiarato lui, e lo giura, non ha nessuna intenzione di annettere l'Ucraina dell'Est. Come la mettiamo? Ma... beh, veramente, sarà... veramente un caos totale. Cambia tutto nell'assetto geopolitico. Salamino. Salamini editoriali. Salamini libreria. Allora, io vi vorrei sottoporre questa questione. In Francia la polemica politica si fa coi libri, in Italia invece ce la diamo dopo la risposta. In Francia la polemica comincia coi libri, perché grande successo ha avuto Zemmour con Il suicidio francese, che è stato considerato come il best seller che punta il dito su un tema, l'immigrazione. Ha preparato la strada piuttosto al libro che ancora deve uscire a libreria, ma che già ha guadagnato centro, tutti, sì, proprio lo spazio del dibattito, e sta al centro della discussione, del dibattito nazionale e internazionale, che è Sottomissione, il nuovo libro di Michel Houellebecq, dove si immagina ciò che sta per accadere, e cioè Marine Le Pen che sta per vincere le elezioni presidenziali, ma la democrazia, cioè i partiti democratici della sinistra, del centro, i gollisti, votano in massa Mohamed Ben Abbès, che è il candidato dei Fratelli Musulmani, e lo fanno Presidente della Repubblica di Francia. Sottomissione è dunque il romanzo che tocca il nervo scoperto. L'Europa si avvia al suicidio e solo la scrittura, a quanto pare, i libri, come vediamo, stanno accendendo il dibattito, perché è intervenuto Hollande, è intervenuta Marine Le Pen, è una tradizione francese. È una tradizione francese che si consolida a maggior ragione in questo frangente, con i giornali della prosopopea illuminista che demonizzano Houellebecq. Comunque il livello della discussione è alto e il re se ne resta nudo, cioè Giovanni, i lumi hanno fallito e il mito giacobino non può nulla per scampare al suicidio. E questo che è già avvenuto, un grandissimo tema. E questo è un tema su cui discutiamo. In Italia discutiamo dei tweet sulla Roma, mi pare. Sì, certo. Bene, no? In Italia non ci sono i libri, ma ci sono i tweet. Però il livello qual è? È quello sempre di Biberò. Biberò. Ancora col canzoniere, caro Pietrangelo, ti tocca lavorare. Sempre scendi invocata, e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensieri sull'orme che vanno al nulla eterno. E intanto fugge questo reo tempo, e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. Basta, se no è troppo facile. 800 24 00 24 il numero verde per chi ha questa facile risposta, oppure sms 349 238 6666. Mix 24. Dopo aver curato così brillantemente questa 3D, è tornata anche la voce di Sara Tardelli. Come prima puntata, ragazzi, inizio col parlare di un luogo che secondo me ha le caratteristiche di un buon auspicio per il 2015. Un posto dove non si teme l'ignoto, dove si pensa solo a pianificare il futuro e comandano le donne. È il CERN targato Fabiola Gianotti. E qui si ricomincia una sofisticatissima ricerca con l'utilizzo dell'LHC, questo acceleratore di particelle che corre per 27 km sottoterra. E siccome sono curiosa, abbiamo Paola Catapano, giornalista scientifica e responsabile della comunicazione del CERN, cioè dove è stata scoperta la cosiddetta particella di Dio. Il vostro acceleratore, sta scaldando i motori, ma per trovare che cosa? Il Big Bang? Beh, il Big Bang è diciamo, il punto iniziale di creazione dell'universo, ed è quello, è il grande tema. In realtà siamo arrivati a un miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, vogliamo andare ancora più vicini a queste condizioni primordiali, grazie a questo aumento doppio dell'energia che ci consentirà di ricreare le condizioni ancora più vicine. Cercherete di avvicinarvi il più possibile. Tante cose che, tanti misteri che sono molto molto ancora siamo molto ben lontani dal capire. Noi con il bosone di Higgs non abbiamo capito veramente cose nuove, abbiamo confermato che la teoria. Che è stata elaborata fino ad oggi, che tutto quello che è stato scoperto fino ad oggi negli ultimi 55 anni è corretto. Dottoressa quello Capitano. Che non sappiamo è molto di più. Con quello che abbiamo scoperto fino ad oggi negli ultimi 55 anni di fisica dell'infinitamente piccolo, conosciamo solo il 4% dell'universo. Cioè in quel miliardesimo di secondo c'è nascosto di tutto e di più. Sì, c'è nascosto per esempio il 90%, il 96% dell'universo che non conosciamo. La prossima sfida è scoprire di cosa è fatta questa materia oscura. Quindi per studiare una delle maniere per capire di cosa è fatta questa materia è rifarla in laboratorio. Dell'HC è proprio quello che cercheremo di fare. Poi in realtà quello che cerchiamo, come in tutta la ricerca di frontiera, è l'ignoto, cioè noi andiamo a una regione di energia che corrisponde all'universo che non ha mai studiato ancora nessuno e vedremo che cosa troveremo. Che cosa troverete? Dottoressa Catapano, ma quanto dura questo esperimento, questa ricerca? La fase che sta per partire adesso a marzo del 2015 durerà almeno 4-5 anni, dopodiché dipende poi da cosa scopriamo, da cosa si vede e così via. Nel 2008, cioè la prima volta che avete acceso questo enorme acceleratore, sui giornali si era scatenato il panico. Si pensava che con i vostri esperimenti avreste, non so, creato un buco nero, risucchiato una parte di umanità. E tutto sotto controllo. È stata una follia collettiva assolutamente infondata, soprattutto perché alla prima accensione si accende l'energia più bassa possibile, che è quella che abbiamo utilizzato negli ultimi 50 anni al CERN con l'acceleratore precedente dell'HC, l'SPS. È vero, si è scatenato il panico a causa dell'ignoranza generale e a causa delle idee di due persone che volevano speculare su questo fatto. L'idea di creare un buco nero in laboratorio intanto non era possibile a quelle energie basse, all'energia doppia ci si può chiedere se riusciremo a fare un buco nero. In ogni caso, se si fa o non si fa, sarà un buco nero microscopico. Quello che si crea in laboratorio non è l'universo alla grandezza che conosciamo. Se si riuscisse sarebbe bellissimo e non sarebbe assolutamente pericoloso. Vabbè, e vedremo il CERN che cosa scoprirà ancora. Intanto ancora una bolla di Mario Secchi. Sì. Questo è Maybe Tomorrow di Stereophonics, che non c'entra niente con la bolla che devo raccontarvi adesso, però mi piaceva tanto. Ti piaceva la... Sì, è fantastica, è un sound meraviglioso, senti, sì. Riconcilia col mondo. Allora, beh, intanto c'è tutto un problema sulla salsiccia, lo sai Giovanni. Il trattato sul commercio che Europa e Stati Uniti stanno cercando di siglare con grandi difficoltà, devo dire, è in stallo perché Berlino vuole in qualche maniera allargare il suo mercato della salsiccia, eppure gli americani, e vorrebbe anche proteggere i brand regionali, i marchi regionali. Così non sarà. Il ministro dell'agricoltura tedesco ha dichiarato ufficialmente che, udite udite, non tutte le salsicce possono essere protette. Grande, vasto problema politico dell'Europa, la salsiccia tedesca. E il salamino di Pietrangelo? Adesso pronunciate la formula del cerchio magico. Da oggi parteciperà anche Lullaby. Ecco, ecco, ecco, un salamino magico. Perché una cosa è il cerchio magico, e ce l'abbiamo tutti presente, quello con Dudù che è Ucanuzzo, con Francesca Pascale che è la Guaglioncella, con Maria Rosaria Rossi, comandante in capo della stretta cerchia chiusa intorno a Silvio Berlusconi, chiamata anche Patapunfete. Ah, così l'hanno chiamata? Sì, la chiamavano perché? Così, perché quando si presentò in transatlantico, e lei così bella, così soave, sì, così, è vero? Così. Allora, vedendola salire, immaginarono, sbagliando oltretutto, che cadesse e che quindi producesse questo Patapunfete. Invece Patapunfete sta lì e comanda. Ed è nel cerchio magico. E di che cosa? Cosa comanda? Comanda. Anche il cavaliere organizza. Se Dudu deve mangiare, dice fate mangiare Dudu. No, gestisce le finanze. Le finanze. Quello Dudu mangia, quello costa, consuma, costa, convenienza. Sì. E poi c'è invece, dall'altro lato, c'è il giglio magico, che è la conventicola di potere che fa codazzo a Matteo Renzi. Sono tutti toscani. A Chigi. A Chigi si chiama così adesso. Lo chiamano Chigi, sì, perché gli hanno tolto il palazzo. A Chigi. Come al bar, capito? Sì, a Chigi. Comunque sono tutti, come dicevi, reduci da Piazza della Signoria a Firenze, sono stati reclutati al tempo in cui il caro leader era sindaco. E allora questi sono stati indicati dai nemici interni del PD di Matteo Renzi, come quelli che hanno fatto le operazioni delicate, quelle che Giovanni prima tu cercavi di strappare al nostro Toti, e pare che lì ci sia la mano fondamentale di questo vigile, anzi della vigilessa, Antonella Manzione, ex comandante delle guardie metropolitane, per dirla con... volete sentire questa una pagina fondamentale? Vai. Ascolta. Pensa che torni al tuo paese e che il comune di Sorrento ti ha dato la più bella soddisfazione nominandoti comandante delle guardie municipali. Non dire guardie municipali, ma metropolitani. I guardie municipali non è lo stesso. No, io le guardie municipali non le comanderei mai. Metropolitani sì. Metropolitani. Oh, allora però c'è appesa una questione. Fa molto italiani. Tra cerchio magico e giglio magico mi ha colpito un'intervista che ha concesso Verdone, dove diceva che sono stati fatti tutte le divise, tutte le uniformi, sono state coinvolte nella grande pagina che è la commedia italiana. E quindi abbiamo avuto carabinieri che diventano carabimatti, e abbiamo la polizia che diventa Catarella, abbiamo le guardie che diventano metropolitani, metropolitani e pizzardoni. Oh, datemi una risposta e magari la rivolgiamo agli ascoltatori. Ma perché mai non si è mai fatto una commedia dove c'è la Guardia di Finanza? Però si è fatta Guardia Costiera, guardia di finanza. Commedia. Quella la fiction. C'è pure la forestale. Vediamo se Stefano da Parma distrae l'attenzione. Mi hanno terrorizzato alla regia, si può dire. Stefano? Buongiorno. Allora, abbiamo indovinato? È il sonetto dedicato alla sera di Ugo Foscolo. Giusto! Mamma mia, bravissimo! Nell'interpretazione di Erlitzka. E che facciamo a Parma di bello? Feltrinelli. Faccio il medico, stamattina sono in riposo. Il medico della mutua? No, medico psichiatra. E i vigili vengono da lei? Ne vengono tanti. Grazie, buon lavoro, vi ascolto quando posso, mi piacete molto. Grazie, molto gentile, soprattutto la Tardelli che è stata invocata nel suo rientro. L'8 gennaio del 21 a Raccalmuto, in Sicilia, è nato uno degli intellettuali più importanti del Novecento, che con i suoi libri, i suoi articoli ha lasciato il segno in moltissimi temi che sono attuali anche oggi, come per esempio quello dell'antimafia e i suoi professionisti. Ascoltiamo le parole di Sciascia. Il nome dell'antimafia si esercita in una specie di terrorismo. Il coordinamento antimafia non capisce che in questo paese c'è libertà di opinione, libertà di dissenso, libertà di critica. A me non interessa chi strumentalizza le mie opinioni.